sul luogo e sul luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buon pomeriggio, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, il vostro appuntamento quotidiano con l'attualità internazionale. Saluti vi arrivano anche da Mirella Lucchetti, Nadia Zammitti che sono in redazione, Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, gli sms al 349-238-6666, Twitter mi trovate, sono Giampaz oppure Nessunluogo24, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, se poi volete commentare a viva voce i temi che tratteremo quest'oggi, 800-24-0024, prenotatevi adesso, ci sarà eventualmente spazio per voi nella parte finale di questa trasmissione. Allora, l'Iraq ancora una volta richiede la nostra attenzione ed è lì che io vi porto. Peshmerga Special Forces waging an intensive ground operation against ISIS as US fighter jets and predator drones patrol the skies. One of the objectives of this military operation is to recapture the Mosul Dam, the largest in Iraq, from the Islamic State group which controls one third of the country. A whole people put to flight by the Islamic State. Exhausted, terrified. A leggere le agenzie sono intense le operazioni militari in questo momento sul terreno, poi c'è stato anche un giallo, il giallo riguardante la diga di Mosul, è stata presa, non è stata presa, cerchiamo di capirne di più. Le ultimissime con Alberto Negri, buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti voi. Allora, l'hanno presa la diga di Mosul, i curdi sì o no? Perché qui non si è capito, ti devo dire la verità. Ma direi che l'hanno ripreso soprattutto i giornalisti che oggi facevano grandi articoli sulla ricattura, ripresa di questa diga. In realtà lì si sta combattendo ancora. L'inviato della BBC, Paul Woods, un paio d'ore fa diceva appunto che stavano nella retrovia aspettando che le truppe dei Peshmerga entrassero realmente in controllo di tutto il complesso. La diga è molto vasta, probabilmente è stata anche minata dalle milizie del califfato, quindi si sta ancora combattendo al punto che hanno vietato ai giornalisti di andare avanti in prima linea a vedere cosa stesse succedendo, ed è stato vietato anche alla popolazione dei villaggi di ritornare nei villaggi dove erano stati scacciati dalle milizie islamiche. Ecco Alberto, questo ci dà la dimensione intanto di quanto sia importante la diga di Mosul dal punto di vista strategico, ma su quello ci torneremo dopo, e anche come al solito in situazioni belliche di questo tipo gli annunci siano parte fondamentale anche della guerra, no? Ma non c'è dubbio, diciamo che, anzi, come si è detto tante volte, la prima vittima della guerra è la verità, no? Perché la guerra è fatta anche di propaganda, ce l'ha dimostrato anche recentemente proprio il califfato, che ne attua un tipo di propaganda assai sanguinosa e atroce, che è quella di decapitare i villaggi, di imporre una legge islamica durissima in una versione assolutamente estrema, e tutto questo fa sì che basti la notizia che loro stiano avanzando da qualche parte che i villaggi e le città vengono abbandonate addirittura senza combattere. Così è accaduto anche in Kurdistan, Mahmur. E qua si mostra, insomma, viene evidente l'efficacia della strategia del terrore, come già altri gruppi armati in altri conflitti. Usare le maniere forti fin dall'inizio significa scatenare il terrore, avere un brand tra virgolette molto forte, quindi basta alzare il vessillo nero per fare piazza pulita. Alberto, ti faccio montare il grandangolo, perché c'è una dichiarazione di ieri che sicuramente hai letto del ministro degli esteri tedesco, che in un'intervista al quotidiano Bild dice speriamo sia mantenuta l'integrità territoriale dell'Iraq, in buona sostanza chiude le porte e le finestre a uno Stato curdo indipendente, perché questo, dice, destabilizzerebbe ancora di più la regione. Io, personalissima opinione, leggo questa cosa come l'ennesimo segnale della diplomazia internazionale che è fondamentalmente preoccupata di avere un interlocutore solido e stabile a Baghdad prima di ogni altra cosa. Tu come la vedi? Sai, io sono tornato qualche giorno fa dal Kurdistan e ti devo dire che mi sembra che l'integrità territoriale del Kurdistan l'abbiamo già salutata, ma non in queste settimane, ma già nel 2003. cioè quando in realtà questo paese si è diviso in una guerra civile dove già i curdi stanno per i fatti loro. Erbil oggi è come andare in una Dubai tra le montagne, perché è stata baciata dalla ricchezza del petrolio, esporta il suo petrolio in contrasto col governo centrale di Baghdad attraverso una pipeline che la porta in Turchia e poi viene venduto sui mercati internazionali. È andato persino in Israele il petrolio del Kurdistan, pensate un po'. Quindi direi che questo del ministro degli esteri Teresa Tamai era un po' un wishful thinking, cioè nel senso che è uno di quegli auspici che si fanno di fronte a una situazione che è già frammentata, abbondantemente frammentata, cioè sappiamo già benissimo che questo Iraq federale, perché è un Iraq confederale anzi, è già fallito da tempo, no? E il califfato sta dando, come dire, l'ultima spallata a una fiction che oltretutto si basa sul fatto che i confini di questo paese non esistono più. Guardate, io quando ho visto questo intervento internazionale, sì d'accordo, i raid americani, le armi ai curdi, ma qui è come un po', mi sembra, curare il cancro con l'aspirina, perché la questione irachena non si risolve soltanto in Iraq, ma si risolve soprattutto anche partendo dalla Siria. Grazie mille Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buona giornata Alberto, buon lavoro. Grazie a voi. (349) 238-6666 per i vostri commenti, Twitter, Giampaz oppure Nessun Luogo 24, infine Facebook, Nessun Luogo Radio 24. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano vi raccontiamo la battaglia per la diga di Mosul, un luogo strategico per tutta una serie di motivi che analizzeremo nel proseguo della trasmissione. Un ruolo fondamentale ovviamente in situazioni come queste lo giocano le armi, che tipo di armi vi sono sul campo, come vengono utilizzate, ci soccorre in questa analisi Carlo Gian, che è presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica. Professor Gian, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e a tutti gli telespettatori. Professor Gian, allora, in questi mesi ISIS ha dimostrato di avere un esercito molto ben addestrato e soprattutto ben preparato. Abbiamo visto anche immagini, no, di carri, di blindati rubati magari all'esercito iracheno, trafugati dalla Siria. Non sono queste competenze che si acquisiscono in pochi giorni, in poche settimane, o sì? Ma guardi, sicuramente l'esercito dell'ISIS è molto disciplinato e comprende anche dei guerrieri che sono molto addestrati, che hanno combattuto in diverse guerre e che dai ceceni agli afghani, anche parecchi europei. E di conseguenza l'impiego delle armi moderne non è così difficile come l'impiego delle armi precedenti. Un carro armato è in gran parte robotizzato e di conseguenza condurlo è molto più facile che non quello di condurre, per esempio, non so, uno Sherman oppure un M13 italiano della seconda guerra mondiale. Quindi in sostanza lei dice che la tecnologia dà una mano anche al guerrigliero dell'ultima ora o quasi, insomma. Ah, sicuramente, guardi, la tecnologia moderna ha una caratteristica che mette in condizioni individui singoli o piccoli gruppi di disporre di una potenza di fuoco incredibile rispetto a qualche anno fa. Professor Gian, leggo sulla stampa ad esempio che alcuni colleghi italiani hanno intervistato ufficiali peshmerga, i quali lamentano di avere ad esempio mitragliatrici da 12 mm mentre l'ISIS ha mitragliatrici da 18 o 22 mm. Ci aiuta a capire meglio che cosa significa in termini di gittata, di potenza di fuoco, questi pochi millimetri di differenza cosa significano? Guardi, la differenza del calibro in quel caso lì è estremamente poco rilevante, perché il problema è quello lì di avere un campo di vista di tiro sufficientemente lungo per poter utilizzare completamente la maggiore gittata che consente il calibro maggiore. Comunque tutto sommato queste armi quasi equivalgono come potenza di fuoco. Professore, come ricordava anche Alberto Negri nel primo collegamento, e come abbiamo letto da alcune agenzie, pare che la diga di Mosul sia piena di ordigni che i guerriglieri dell'ISIS avrebbero disseminato nella struttura. Secondo lei i Peshmerga hanno le capacità per disinnescare questi ordigni? Hanno unità di artificieri degni di questo nome o più ragionevolmente ricorreranno all'aiuto straniero? Guardi, i Peshmerga sicuramente sono molto addestrati, sono anni e anni che combattono. La disseminazione di esplosivi nell'ambito del bacino della diga di Mosul non è in condizione di far saltare la diga. Il problema è se ci sono delle cariche nella diga che la rompano d'improvviso, provocando una grossa ondata che avrebbe effetti disastrosi su gran parte dell'Iraq. Un altro commento glielo chiederei sulla logistica di ISIS e sul controllo del territorio. Secondo lei ce la può fare nel lungo termine a controllare un territorio così vasto e soprattutto, e da ciò discende la seconda domanda, a garantire i rifornimenti alle truppe d'assalto, alla prima linea, in un momento in cui la distanza fra il quartier generale in Siria e la prima linea irachena è così lungo, insomma? Guarda che praticamente l'ISIS ha circa un terzo del territorio iracheno, un terzo del territorio siriano. Le basi logistiche dell'ISIS sono sicuramente diffuse in tutto il territorio iracheno, da nord nella zona di Mosul a sud ovest nella zona di Ramadi e di Fallujah, e di conseguenza penso che non ci siano con questi grossi problemi di carattere logistico. Grossi problemi di carattere logistico possono derivare dalla allungamento delle vie di rifornimento che sono colpite poi dalla reazione americana. Che è poi quello l'obiettivo dei raid statunitensi in buona sostanza? Sì, penso proprio di sì, a parte il fatto che l'obiettivo dei raid sembra quello di eliminare le difese intorno alla diga di Mosul in modo tale da permettere ai Peshmerga di prendere il controllo della diga ed evitare un'ipotesi, peraltro ipotetica diciamo, chiedo scusa del bisticcio di parole, sì, che l'ISIS faccia saltare la diga provocando delle distruzioni enormi in tutto il territorio iracheno. Che peraltro era già successo però, perché fecero saltare una diga in primavera, poi fu quell'inondazione fu poi il preludio a una loro avanzata sul campo. Certo che qua stiamo parlando di una diga gigantesca il cui controllo evidentemente interessa agli stessi militanti dell'ISIS, quindi forse è più remota questa possibilità che è stata agitata. A mio avviso alquanto remota, perché l'ISIS sicuramente vuole conquistare il territorio, ma non vuole distruggere il territorio, occupare un territorio distrutto. Professor Gian, anche a lei l'ultima domanda, le faccio montare il grand'angolo sulla sua lente d'osservazione, una considerazione più generale. Abbiamo visto che ISIS ha una leadership astuta, sono molto efficienti, sono molto efficaci sul territorio. È possibile che non abbiano previsto un piano B? Cioè davvero potevano pensare di marciare quasi fino a Baghdad senza alcuna reazione da parte dell'Occidente? Allora a quel punto, se l'hanno prevista, quale può essere la loro strategia? Ma guardi, la strategia è quella di occupare il territorio, consolidare il possesso del territorio, raccogliere intorno a loro le tribù sunnite che si sono sentite particolarmente emarginate da al-Maliki, dal governo di al-Maliki, e di conseguenza avere un sostegno molto forte su quasi tutto il territorio. E i successi dell'ISIS in gran parte non sono dovuti tanto ai guerriglieri dell'ISIS, ma alle milizie sunnite che si sono unite all'ISIS. Adesso ci sono dei segni in senso contrario, per esempio ci sono delle tribù sunnite che hanno dichiarato di accettare il nuovo governo iracheno qualora il nuovo governo iracheno dia loro uno sufficientemente spazio di potere. Sì, che era quello che era mancato con il lungo governo di al-Maliki, che era assolutamente esclusivo, nel senso che privilegiava la minoranza sciita. Quindi in sostanza lei dice la cooptazione sul terreno di formazioni sunnite a loro fedeli era un po' la carta sulla quale hanno giocato fino a questo momento, e che però potrebbe venire a mancare da adesso in poi. Sì, deve tener conto una cosa, che in Siria e in Iraq non si combattono solo guerre civili, si combattono anche guerre per procura, e bisogna vedere fino a che punto l'Arabia Saudita, gli Emirati del Golfo, il Kuwait, l'Oman e così via non continueranno a sostenere finanziariamente, anche con armi, con addestramento, forse anche con tecnici, le truppe dell'ISIS. Per adesso l'ISIS è considerata un un amico da parte dell'Arabia Saudita, in quanto contrasta gli sciiti, e in particolare contrasta gli sciiti iracheni, iraniani. Però a lungo andare il califfato ha una ideologia che mina le basi, il potere della famiglia reale saudita, potere della famiglia reale saudita che è un potere territoriale, un potere statale, mentre invece il califfato è una questione di carattere ecumenico e quindi distrugge le basi del potere della famiglia saudita. E quindi insomma alla lunga questo cordone ombelicale che li lega potrebbe spezzarsi. Grazie mille al professor Carlo Gian, presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a lei. La guerra dell'acqua, come è stata ribattezzata da tanti media da un paio di giorni a questa parte, perché in ballo c'è il controllo della diga di Mosul, una diga gigantesca che consente un approvvigionamento energetico di 1000 megawatt e la cui distruzione, quella che è stata paventata dall'ISIS, porterebbe alla completa inondazione di tutta la vallata sottostante appunto alla diga stessa. Ma come sottolineava molto bene il professor Gian, è molto difficile che ISIS metta in atto questa minaccia. Non c'è dubbio che il controllo di quella diga possa voler dire mettere al buio e mettere senza acqua tutte le popolazioni che sono a valle. Da qui si capisce l'importanza di questa battaglia. In queste ore è ancora in corso, ve ne daremo conto, siamo con l'occhio sulle agenzie per capire se una volta per tutte le formazioni Peshmerga che stanno avanzando a sud della diga riusciranno appunto a prenderne il possesso. E poi una volta preso possesso bisognerà vedere se è vera quella minaccia degli ordigni esplosivi piazzati nella struttura tattica già messa in atto da ISIS durante il suo ritiro degli ultimi giorni. Allora, adesso vi propongo una chiacchierata che abbiamo fatto con Michael Stevens, che è vice direttore del Royal United Service Institute, è un think tank di base in Qatar. Lui aveva scritto proprio sul Guardian di oggi di quanto contasse, di quanto sia importante l'acqua come risorsa in un conflitto come questo. Lo ascoltiamo insieme. Absolutely. I think water is, if not the most central aspect, but certainly a very central aspect of the conflict. Certo, l'acqua è, se non l'aspetto centrale di questa guerra, uno degli aspetti più importanti per la capacità degli eserciti e delle varie milizie di combattere per lunghi periodi e di mantenere le proprie posizioni di difesa e sostanzialmente così di garantirsi il successo. Una cosa che abbiamo notato da subito nell'avanzata dell'ISIS in Iraq è che per ogni posizione attaccata e conquistata, i guerriglieri hanno subito cercato di ottenere il pieno controllo delle risorse idriche, ma non solo, e di tagliare le stesse risorse ai nemici. Quindi il collasso dell'esercito iracheno ha molto a che fare con l'impossibilità per le truppe di prima linea di ricevere acqua e altre risorse e di non poter essere raggiunti dai comandi. Di conseguenza, sono stati costretti a ritirarsi di fronte al pesante fuoco usato dai guerriglieri dell'ISIS. Dunque, il controllo dell'acqua è fondamentale per assicurarsi il successo sul campo in qualsiasi caso di offensiva militare. Ecco, chissà se vi ricordate, l'ultima settimana di luglio abbiamo fatto una programmazione speciale, erano 5 puntate in cui parlavamo del lessico minimo per poter leggere e comprendere meglio l'attualità internazionale, e la penultima puntata era R come risorse. risorse, diciamo, nel lungo termine, come può essere quella del petrolio, perché si stima che ISIS riesca a vendere circa 10.000 barili al giorno, avendo occupato alcune postazioni petrolifere. E poi invece c'è l'acqua, che anche nel brevissimo periodo è fondamentale, lo avete capito, non soltanto per, come dire, le esigenze civili, ma anche banalmente, tra virgolette banalmente, anzi semplicemente per andare a rifornire quelle che sono le truppe in prima linea. Con Michael Stevens, che dirige il Royal United Service Institute in Qatar, abbiamo anche chiacchierato appunto di come il fatto che se le front line dell'esercito iracheno, ad esempio, non possono avere acqua, significa che i livelli di organizzazione e di logistica degli eserciti, sia iracheno, anche quello curdo dei Peshmerga, sono livelli di logistica molto lontani da quelli occidentali. Ascoltiamo la risposta. Esattamente. Questa è una delle cose che abbiamo notato in particolare nell'esercito iracheno. Il loro controllo logistico delle risorse non era per nulla buono, ed è a causa della carenza di acqua e altre risorse che molte truppe frontline hanno preferito abbandonare la posizione e fuggire. Bisogna dire che già al momento del primo attacco dell'ISIS a giugno, i soldati iracheni in combattimento non hanno bevuto per 2 giorni. Perciò appare chiaro come a quelle condizioni, quando le truppe si sono ritrovate sotto il fuoco dell'ISIS, isolate e con una temperatura di 45 gradi centigradi, sarebbe stato impossibile non essere battuti sul campo. Per quanto riguarda l'esercito curdo dei Peshmerga, loro controllano un'area più piccola di quella dell'esercito iracheno, quindi l'organizzazione logistica della difesa dovrebbe essere leggermente migliore perché più semplice. In più, loro hanno le proprie risorse d'acqua indipendenti, che non derivano dai corsi principali del Tigri e dell'Eufrate, quindi sono in posizione avvantaggiata rispetto all'esercito iracheno. Ma l'aspetto dello scarso controllo sulle risorse rimane comunque importantissimo. E questa è l'importanza delle risorse nel lungo e nel breve termine. Lo dicevamo, nel lungo termine sicuramente la vendita del petrolio, si stima, leggo dalla stampa di oggi ad esempio, una 10.000 barili al giorno, con un'entrata quotidiana di $12.000, lo ribadiva anche il professor Jean. Proprio la stampa di oggi in realtà metteva tra le fonti di introiti, le fonti di finanziamento di ISIS, le donne schiave vendute al mercato nero. Su quella, ma è la mia personalissima opinione, credo che se avviene sia un budget risibile rispetto, ad esempio, chi ci ha seguito la puntata speciale di Ferragosto, alla vendita di manufatti, di opere d'arte, di reperti archeologici che i nostri esperti hanno valutato in centinaia di migliaia di dollari. Nel momento in cui viene trafugata una piccola innocua statuetta che magari sta in una borsa e finisce in un mercato nero, finisce in un'asta senza possibilità di essere tracciata, lì si parla di centinaia di migliaia di dollari. Questo per dire come il controllo del territorio, il controllo delle risorse, ovviamente sia una priorità per l'ISIS. Nessun luogo è lontano. E mentre furono i combattimenti per la presa della diga di Mosul, una diga alta più di 100 metri, ve l'ho detto, una capacità energetica di 1000 megawatt, 11 miliardi di metri cubi d'acqua, era quella che aveva tanto spaventato quando ISIS minacciò di farla saltare in aria, ma come abbiamo capito è una minaccia piuttosto remota. Quello che è importante invece è che fornisce non solo acqua ma anche energia elettrica a tutta la vallata sottostante. Di questo abbiamo parlato con Michael Stevens, che è vice direttore del Royal United Service Institute, è un think tank di base in Qatar che segue da molto da vicino la situazione irachena. A lui ho chiesto se sto estremizzando quando dico che l'acqua è più importante del petrolio in questo conflitto. Certainly in terms of military capacity, yes, and also for many civilians living in the conflict, because this is... No, è vero, certamente in termini di strategia militare, ed anche per garantire la sopravvivenza dei civili, anche perché non è facile ottenere moneta liquida dai pozzi petroliferi, quindi tale tipo di risorse non rispecchia quelle che sono le esigenze reali e quotidiane di sostentamento di una popolazione sotto conflitto. soprattutto se parliamo di aree geografiche che soffrono di inaridimento, ma anche di Baghdad, perché la diga di Mosul fornisce acqua a tantissima parte delle utenze della città. È una infrastruttura chiave della regione, quindi un obiettivo sensibile. E giustamente vengono spese molte energie e denaro per la difesa di questa costruzione. E infatti, per arricchire il quadro della situazione, vi ricordo che gli Stati Uniti avrebbero speso circa 30 milioni di dollari negli ultimi anni solo per la manutenzione e per la sicurezza di questa diga. E già che stiamo parlando di cifre, stiamo monetizzando, stiamo cercando di dare un valore a questa risorsa importantissima, ho chiesto al dottor Stevens se è possibile appunto dare un valore economico al controllo della diga di Mosul. Sì, è possibile, ed in particolare con la diga di Mosul, che fornisce una larghissima parte di acqua ed energia elettrica nell'area circostante. Quindi è la fonte che determina la sopravvivenza degli abitanti di questa parte dell'Iraq. Senza la diga non potrebbero esistere i centri urbani che ci sono in quest'area geografica. Mosul stessa è una grande città, principalmente grazie alla distribuzione energetica e di acqua proveniente dalla diga, senza la quale quest'area sarebbe umanamente invivibile. Quindi quello che abbiamo davanti è una situazione in cui, anche dando un valore economico al controllo della diga, esso non terrebbe conto del valore delle vite umane presenti in tutta l'area. Tutta la regione irachena è semidesertica, senza pozzi, e gli insediamenti umani che si sono stabiliti attorno all'area di Mosul sono troppo difficili da quantificare in termini economici. E fra l'altro, a leggere i reportage dei colleghi italiani che sono sul posto, non è sicuro che una volta che i Peshmerga riconquisteranno la diga vorranno spingersi fino alla stessa città di Mosul. Quindi insomma, una situazione da tenere sott'occhio ora per ora, perché la situazione è fluida ed estremamente variabile. Sempre con Michael Stevens, che dirige il Royal United Service Institute in Qatar. L'ultima domanda per lui riguardava un'altra grande diga in Iraq, che è quella di Samarra, che è molto più vicina a Baghdad e per riottenere la quale i Peshmerga hanno lottato per settimane. Al di là della diga di Mosul, ho chiesto a Stevens, in termini di controllo dei fiumi e quindi delle risorse di acqua, è più importante mantenere il controllo sulle dighe a monte o sulle dighe a valle? Ascoltiamo. Generally speaking, it is more important to have control upstream, simply because that gives you the first say over how much of the water supply. Generalmente è meglio avere il controllo a monte delle risorse idriche, semplicemente perché solo così si può avere idea precisa di quanto grossa sia la risorsa e di quanto territorio sia in grado di rifornire. Abbiamo visto molte dispute politiche tra Turchia ed Iraq, ad esempio, perché in Turchia nascono entrambi i fiumi Tigri ed Eufrate e le dighe o le deviazioni di corso costruite sul territorio turco hanno influito sulla vita delle popolazioni irachene che vivono a valle dei due fiumi. Ciò nonostante, la diga di Mosul è sicuramente di importanza fondamentale per il territorio, tant'è vero che sono sorti degli scontri politici tra curdi ed arabi iracheni, quando i curdi hanno tentato di rispondere ad una limitazione delle esportazioni di greggio da parte del governo di Baghdad, limitando l'utilizzo della risorsa acqua. Quindi si può dire che esistono molte zone che fungono da risorsa d'acqua, ma chi ne ha il controllo a monte ha il controllo politico della zona. Mentre sul terreno infuriano i combattimenti, a livello diplomatico vi sono tantissimi incontri, lo immaginate, le varie diplomazie internazionali stanno cercando di capire quante armi dare, che tipo di armi dare, l'avete sentito anche dalla la settimana scorsa dalla viva voce del vice ministro degli esteri Lapo Pistelli qui a questi stessi microfoni. Mercoledì prossimo alle 12:30 i ministri degli esteri, la Mogherini e quella della difesa Roberta Pinotti, svolgeranno davanti alle commissioni riunite affari esteri e difesa di Camera e Senato le comunicazioni del governo sui recenti sviluppi proprio della situazione in Iraq, e lì insomma si capirà probabilmente qualcosa di più sull'impegno italiano in questo conflitto. Però vi dicevo, mentre sul terreno si spara, i politici e i premier europei rilasciano dichiarazioni che come dire, fanno intendere quello che accadrà nelle prossime settimane. Non ultima, ad esempio, il primo ministro Cameron, l'inglese, su Sunday Telegraph scriveva: una vera sicurezza potrà essere raggiunta solo usando tutte le risorse, aiuti umanitari, diplomazia e capacità militari. E nel frattempo, mentre i leader europei appunto si preparano all'appoggio e danno corpo all'appoggio ai curdi, cosa accade? Che Assad, il presidente siriano, bombarda l'ISIS in Siria, per cui paradossalmente la storia mette insieme i nemici e amici, perché in Iraq vi sono i raid statunitensi che aiutano i peshmerga a guadagnare terreno e a cercare di raggiungere la diga di Mosul, e nel frattempo Assad va a bombardare proprio le postazioni di ISIS nella città orientale siriana di Raqqa, che è una delle roccaforti appunto di ISIS. Molto poco si è scritto invece del ruolo che sta svolgendo l'Iran in questa profonda crisi. Tra i pochi che ne ha scritto c'è Nima Baeli, a cui do il mio ben ritrovato nel suo luogo lontano. Nima, buongiorno a tutti. Buongiorno, che ci parla da Isfahan, e mi perdonerai la pronuncia pessima. La pronuncia esatta è Isfahan, ecco. Però non sei l'unica persona che pronuncia Isfahan. Hai fatto bene a bacchettare, Nima. Sei in diretta proprio dall'Iran. Hai scritto un'analisi molto, molto accurata e molto lucida su quello che è il ruolo dell'Iran in questa crisi. Aiutaci a capire meglio. Innanzitutto stiamo parlando di un paese che è un grosso partner commerciale dell'Iraq, è un paese sciita, e adesso che cosa accade? Con che sguardo rivolge appunto lo sguardo al vicino Iraq? Allora, come giustamente ricordato da te stesso, l'Iran in questi ultimi 10 anni ha fatto di tutto per accreditarsi come uno dei principali partner economici dell'Iraq. A oggi, o meglio nel 2013, l'interscambio economico tra le due nazioni è stato di circa 13 miliardi di dollari, e ci sono anche dei progetti per poter creare, per aprire una pipeline fra le due nazioni per un ulteriore guadagno da parte iraniana di circa 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di dollari l'anno. Fondamentalmente, più che le questioni economiche, ed è questo anche il motivo per cui l'Iran è fortemente impegnato a sostenere il governo sciita, o comunque quello che sarà il governo che verrà appunto nominato a breve, è finalizzato al fatto che l'Iran ha il desiderio assoluto di avere a Baghdad un governo che non sia ostile. L'Iran, in Iran è ancora molto vivida la memoria, basta appunto passeggiare nelle varie strade di Isfahan o di qualsiasi città iraniana e vedere le immagini dei martiri della guerra Iran-Iraq. Per cui la priorità iraniana è che non ci sia mai più un governo ostile che possa utilizzare l'Iraq per lanciare un attacco nei confronti dell'Iran. Chiarissimo. Nima, fra l'altro, adesso manca tra poco, devo andare il traffico, ti faccio la domanda, poi magari ti prendi il tempo per rispondere. Tu giustamente scrivevi che Teheran ha investito notevoli risorse, anche finanziarie, negli ultimi 10 anni per in qualche modo farsi amico l'Iraq, mi si scuserà la semplificazione. Però insomma il budget iraniano non è infinito, soprattutto considerando la pressione finanziaria internazionale, no, sul paese, e quindi ce la farà a sostenere nel lungo termine quest'opera di vicinanza nei confronti dell'Iraq? Allo stato attuale la Repubblica Islamica è sotto sanzioni, tuttavia è sotto pressione su due quadranti fondamentali per il paese, ovvero la Siria e l'Iraq. In tutte e ambedue le nazioni l'Iran sta sostenendo i due governi, in Siria in maniera molto forte, e se vogliamo vedere il fatto se il governo Assad a tutt'oggi è riuscito a resistere, molto in merito dell'aiuto dell'Iran e di Hezbollah. In Iraq sta ugualmente, con l'appoggio di istruttori e di aiuti economici, sta cercando di aiutare l'attuale governo, però come giustamente ricordato ogni aiuto in più all'Iraq è un aiuto in meno alla Siria. E quindi questa è una questione molto importante per il governo iraniano. Tuttavia, in qualche maniera, l'ISIS sta facilitando il compito all'Iran, perché con le sue azioni di contrasto e conflitto nei confronti di chiunque, è riuscita in qualche maniera a coalizzare un fronte che oggi si estende in qualche maniera dagli Stati Uniti all'Iran, ai paesi europei e alla stessa Arabia Saudita. E quindi in questa maniera, forse, nel quadrante specifico iracheno, il compito iraniano di contrasto all'ISIS non è così solitario. Nessun luogo è lontano. Il ruolo delle diplomazie occidentali, ma non solo, il ruolo dell'Iran nella profonda crisi che sta attanagliando l'Iraq, è questo il tema principale di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. C'è chi ci scrive al 349-238-6666: qual è il ruolo della Siria e di Assad nella guerra in Iraq, che nessuno ne parla? Beh, di sicuro la base di Iraq in territorio siriano è un'ottima base di partenza per i guerriglieri di ISIS. E sulla triangolazione Iraq, Siria, Iran ci sta illuminando Nima Baeli, che è un ricercatore, analista fra l'altro per l'IMES, che ci parla da Isfahan, a sud di Teheran. Di nuovo Nima, volevo farti finire il ragionamento, però già che hai citato il fatto dell'invio di non di truppe combattenti ma di istruttori, questo è un punto sensibile, un punto delicato, perché quasi tutte le grandi potenze fanno questo, mandano intelligence, mandano istruttori, poi, salvo poi spesso negare, no, la presenza sul terreno. Cosa possono fare questi istruttori sul territorio? Questi istruttori, diciamo, è confermata la notizia che il generale Soleimani, il capo della brigata al-Hawz, ovvero l'unità d'élite di Pasdaran, sia stato varie volte in Iraq da giugno ad oggi. Così come fatto precedente in Siria, gli istruttori hanno una funzione fondamentale, ovvero di addestrare delle milizie paramilitari che possono combattere sul territorio contro, in Siria, contro tutta la galassia dei vari ribelli ISIS in primi, e lo stesso appunto in Iraq per poter contrastare ISIS. Nello specifico in Iraq ci sono varie forze paramilitari di area sciita che negli anni passati sono state utili ai giochi regionali iraniani. Alcuni di questi, per esempio, uno strumento molto prezioso è stato la Saeb al-Haq, ovvero la Lega dei Giusti, che era una milizia sciita che è stata creata nel 2006 ed era stata finalizzata a indebolire quello che fino in vari momenti storici è stato un alleato e in altri momenti è stato un nemico, ovvero Muqtada al-Sadr. Altre strutture sono per esempio la Big Bad, che pure è stata molto importante, che è legata al Consiglio Supremo Islamico dell'Iraq e che potrebbe servire per contrastare. Oltre a queste sono tante altre unità paramilitari e, diciamo, l'idea fondamentale è che, così appunto, gli Stati Uniti non possono mettere gli stivali sul territorio e rischiare di perdere soldati americani in Iraq, anche gli iraniani non possono rischiare di perdere soldati iraniani in Iraq, e quindi la questione più importante e prioritaria è cercare di addestrare persone che possano combattere per portare avanti gli interessi del paese appunto in Iraq o in Siria. Chiarissimo. L'ultimissimo punto sul quale vorrei sollecitarti, Nima Baeli, prima di lasciarti e di ringraziarti per il tuo contributo, è tu parli anche nella tua accurata analisi, lo ripeto, sull'IMES, della fornitura di aerei, perché uno dei grossi problemi di Baghdad è la quasi totale assenza di aerei da combattimento. Sì, difatti diciamo, nella guerra moderna la superiorità aerea è fondamentale. È uno dei limiti sia di ISIS che del governo iracheno di non avere una forza aerea. Allo stato attuale il governo iracheno è dotato di due aerei ad elica con i quali riesce a cogliere ISIS, e quindi è un qualcosa di minimo. Gli Stati Uniti dovrebbero fornire F-16 Abash al governo iracheno, ma a partire dalla fine di settembre, quando invece appunto le città sono fondamentalmente legate a questo momento storico. Che è successo? Nello specifico l'Iran ha proposto all'Iraq di dare indietro tutto uno stock di aeroplani iracheni che erano scappati in Iran durante la prima guerra del Golfo, quella fra Iraq e Stati Uniti. È circa uno stock che varia dai 60 ai 100 aeroplani, guidati, verosimilmente potrebbero essere anche guidati da stessi piloti iraniani. Sulla questione nel tempo, diciamo, non se n'è più riparlato, mentre al contrario invece è certo il fatto che la Russia abbia mandato una dozzina di MiG-25 che sono già operativi sul territorio e che hanno fatto operazioni di distruzione di basi dell'ISIS. Ecco. Al tempo, altra cosa importante, sì, che l'Iran sta facendo, e questo è abbastanza conosciuto negli ambienti specifici, è che hanno mandato una flotta di droni per controllare e vedere i movimenti dell'ISIS sul territorio. E quindi attualmente è abbastanza verosimile che gli iracheni siano abbastanza congestionati da flotte iraniane, americane e russe. Chiaro, chiarissimo. Grazie mille. Nima Baeli, che così rispondeva anche un ascoltatore al 349-238-6666 su questo invio di aerei da combattimento da parte di Mosca. Grazie Nima, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Sì, e poi ci sono altri ascoltatori che ricordano come Hillary Clinton avesse detto che ISIS è roba nostra. In effetti la Clinton aveva detto che il fallimento nell'aiutare i ribelli siriani aveva portato alla nascita vera e propria di ISIS. Allora, 349-238-6666, manca poco, però voglio parlarvi di un'altra vicenda che sta scatenando l'attenzione di tanti colleghi. Parliamo di Julian Assange. WikiLeaks founder Julian Assange says he will leave London's Ecuadorian embassy soon after 2 years. Julian Assange being held captive for 2 years in the Ecuadorian embassy in London. He's now doing a press conference. I am leaving the embassy soon. Dice que va a salir de la embajada pronto. But perhaps not for the reasons that the president's might use. E su quell'aggettivo, su quel soon, lascerò presto l'ambasciata, si è scatenato un circo mediatico che raramente si vede, però lo sappiamo, Julian Assange ci ha abituato a questa attenzione. Do il mio ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Stefania Maurizi, giornalista, la potete leggere fra l'altro sull'Espresso, ed è lei autrice di dossier Wikileaks, segreti italiani, edito da Burr. Stefania, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, Stefania, tu eri particolarmente agguerrita sui tweet, io ti stavo seguendo quest'oggi, no? Perché subito dopo la conferenza stampa è stato tutto un proliferare di si consegna alla polizia, non si consegna. Invece tu hai contattato il suo staff giusto ieri sera, aiutaci a fare chiarezza su quali sono le intenzioni, secondo te, di Julian Assange, tu che lo conosci così bene. Ma diciamo che le intenzioni chiaramente sarebbero quelle di uscire dall'ambasciata e godere del diritto d'asilo, che è un diritto riconosciuto dalle leggi internazionali. Il problema è che tra il volere e l'effettivamente poterlo fare ce ne corre, nel senso che comunque c'è un mandato ancora di arresto emesso dalla Svezia a suo tempo nel 2010, che ad oggi non è stato revocato, e c'è un'inchiesta in corso negli Stati Uniti, per cui quanto questo presto, questo soon, sia poi presto rimane da vedere. Chiaramente ci sono è vero che c'è una speranza, c'è un cauto ottimismo nello staff di Assange, che porta a sperare che questo mandato del resto europeo emesso a suo tempo dalla Svezia possa essere revocato. Però ancora una volta vedremo poi come si evolverà questa vicenda giudiziaria e questo impasse diplomatico, perché oltre che un problema giudiziario c'è un grande problema diplomatico, in quanto comunque la Gran Bretagna si rifiuta di lasciare un salvacondotto, quindi se anche si risolvesse il problema svedese, non è detto che lui possa lasciare l'ambasciata dell'Ecuador, non è detto, perché comunque c'è un'inchiesta degli Stati Uniti, quindi è possibile anche che gli stessi Stati Uniti abbiano messo un mandato di cattura, nessuno lo sa se questo mandato coperto da segreto esiste o non esiste. Certo, quindi la situazione è tutt'altro che semplice, ecco. Su quello non c'è dubbio. Tu dici, Stefano, da un lato abbiamo un procedimento giudiziario che è molto chiaro, è quello dell'accusa di violenza su due donne ed è il procedimento svedese, dall'altro c'è invece quello statunitense per la rivelazione dei segreti, e quello non è dato sapere se avrà un corso, e quindi è una sostanza, una spada di Damocle, come scrivevi tu sull'Espresso online poche ore fa, che può pendere sul capo di Assange, ed è questo che diciamo... Assolutamente, quella è anche l'aspetto più, diciamo, più indeterminato e più complesso di questa vicenda, perché comunque quando entra in ballo la questione di sicurezza nazionale, entra in ballo il segreto, è difficile, non è un procedimento giudiziario, ecco, come quello svedese, che perlomeno sappiamo che è ancora l'indagine preliminare, sappiamo perché vogliono interrogarlo, sappiamo che cosa sta accadendo. Invece nelle indagini degli Stati Uniti sappiamo veramente pochissimo, veramente poco, proprio perché è una questione di sicurezza nazionale. Chiaro. Stefania, poi c'è un altro aspetto che non è chiarissimo, perché Sky News aveva riferito di uno stato di salute non buono di Julian Assange, questa tosse ricorrente, abbiamo sentito anche la voce un po' spezzata, che sarebbe alla base della sua volontà di uscire dall'ambasciata. Lui poi ha replicato in maniera molto ironica: è chiaro, sto chiuso qua da 2 anni, non è, ovviamente insomma la mia salute non è al top. Ci puoi aggiungere qualche dettaglio sulle condizioni di salute di Assange? Ma sì, nel senso che io non capisco da dove Sky abbia preso questa notizia estremamente allarmistica che Julian Assange sia intenzionato a consegnarsi proprio per le sue condizioni di salute. Io smentisco assolutamente che le condizioni di Julian Assange siano tali da doverlo portare a costituirsi, cosa che non farà mai secondo me, e meno che mai perché ha una grave situazione di salute. Ovviamente io, che l'ho visitato anche poche settimane fa, alla fine di maggio, ho visto che chiaramente è un po' provato fisicamente, ma lo sarebbe chiunque dopo 2 anni chiuso in una stanza di 20 metri quadri. Però vi assicuro che non ci sono queste situazioni di estrema gravità della salute che potrebbero portare a far precipitare la situazione. Su questo assolutamente posso assicurare, ne sono testimone. Sicuramente ha questa tosse che è fastidiosa, assizzosa, che va avanti da tanto e che secondo me è rivelatoria di qualche problema che probabilmente ha a livello respiratorio, però non per questo ho assistito a una situazione allarmante, ecco, sì. Questo lo posso testimoniare. Grazie mille Stefania Maurizi, grazie per essere stata con noi. Grazie. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Allora, siamo quasi in chiusura, un ascoltatore mi sollecita, in verità con epiteti non proprio piacevoli, però, a leggermi Francesco Alberoni, un editoriale, Palazzo Chigi, la politica dello struzzo. Allora me lo leggo con cura perché me l'ero perso e risponderò domani alle 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Prima però devo ringraziare Nadia Zammitti, Mire Lucchetti redazione, Filippo Reggi che ha dato musica e ritmo a questa puntata. Ripeto, l'appuntamento è domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. We'll be right back.